non serve a niente, però io lo dico per esperienza, perché voi siete in buona fede, ma sotto sotto sai quanta gente c'è maligna e cattiva, che pur di farci un dispetto è capace di tutto. Ecco perché io ti dico che non deve mai sapere niente nessuno di quello che tu mangi, di quello che tu pisci, perché te lo devi tenere per te, perché domani tu trovi uno che ha le scatole girate oppure ha girato con te e ti fa la porca, ti fa la porca e devi subire tanti di quei guai che tu non ne hai idea, senza contare quello che ti costa poi in avvocati. Siccome io ci sono già passato, lo dico come consiglio, infatti io ti ho detto delle cose specifiche, Claudio ti ha già dato la conferma, perché purtroppo la realtà è questa. La gente sembra tutta quanta brava, dolce, cosa, al momento che tu manco te la spetti ti danno la pugnalata, e la pugnalata che cos'è? Che ti arriva un controllo dall'escorraggio con la polizia postale, tu gli apri la porta perché nella concessione c'è scritto che se tu non apri ti dicono subito tutto e passi tanti di quei guai e non c'è manco capelli in testa. Ecco perché io dico sempre, ragazzi, fate la brava, meno ne parlate, meglio è. Poi ci troviamo di persona, magari diciamo, io ho le CVL, tu c'hai le CVL, io ieri stavo ascoltando per dire Claudio che ha fatto questo ragionamento in 40 mesi, per dire, o in 80 mesi, ma lo sappiamo, io e te, io e Roberto, capito, che abbiamo la concessione. Però non devi mai dire io faccio questo qui, io faccio quello lì, io faccio quello là, perché la gente oggi ti fa il sorriso, domani ti può dare la pugnalata, così che devi evitare questi uni, perché non sai mai chi è il nemico. Non ne parli e buonanotte. Queste cose qui frequenti non si devono mai dire, perché purtroppo qui ascoltano cani e porci. Nel senso che i cani possiamo essere noi che li ammaiamo uno con l'altro e va bene, ma i porci sono quelli che ti mangiano vivo. Non c'è nessuno che le paga. aperto. Tutto tace, capito? È come quello che va a rubare, se non glielo scoprono continuerà a rubare. E poi se non glielo scoprono pagherà le conseguenze. Così funziona per la radio, funziona per tutte le cose. E come noi quando ci fermiamo che c'è un divieto di sosta, lo sappiamo che se passa la bici ci mette la contravenzione. Però molte volte ci fermiamo ugualmente per una necessità, no? O perché devi tenere la bambina che sta uscendo da scuola, per tanti motivi, molte volte le frazioni le facciamo, siamo consapevoli che le stiamo facendo, non è che siamo ignari, capito quello che ti voglio dire io? E purtroppo funziona così, il baracchino se tu guardi ogni tanto c'è un vestigio, una cosa, perché c'è sempre quello che va a mettere le zane, già ne ha parlato male di Tizio, o Caio ha parlato male di Sempronio, e poi non dicono mai le cose giuste come si sentono molte volte, le ingrandiscono, perché devono fare il messaggio per dire a Roberto con Claudio, oppure a Claudio non devono farmi messaggiare con me, oppure a me devono farmi messaggiare con Gianni. Purtroppo le cose succedono perché che uno ha sentito male, o che quello, che quell'altro, poi le cose riferite non sono mai precise. Così che di certi discorsi è meglio fare almeno, tutto lì, capito? Meglio sempre parlare di quanto costa il pane, di quale cavolata abbiamo fatto oggi e via dicendo. Se deve parlare sempre vagamente del più del meno, mai puntualizzare su certi argomenti, perché trovi quello che ti registra per dire ti vuole fare la porca e ti fa passare tanti casini. Tutto lì. Cappa, cambiamo argomento, così almeno finissimo da mezzanotte. Sì, lascia il tuo in bianco per vedere se qualcuno voleva entrare. Molto bene. Ma vabbè, ma i chiarimenti è giusto che ci siano e i discorsi è giusto che li affrontiamo. Purtroppo la verità di tutto ciò è che c'è molta gente che non si presta più su e giustamente come ha detto Mario cerca di mettere il bastone tra le ruote tra chi magari vuole fare due chiacchiere oppure tra chi con poca esperienza si mette a fare questi discorsi, capito? Non c'è problema comunque perché, ripeto, la libertà di parola c'è, basta tenere sempre le cose al posto giusto. Purtroppo è così. La radio è fatta per esprimere, per parlare. Piace quando uno invece di ascoltare bene, riferire bene, ascolta male e riferisce male, oppure ascolta bene e riferisce male, come è stato detto a Mario qualcosa nei miei confronti. Ed è bello anche chiarire le cose, o in radio, o di persona, come abbiamo fatto a Mario, perché a volte si incontrano persone validissime, persone in gamba, vengono messe da parte oppure vengono messe in mezzo a determinati discorsi quando non c'entrano niente, e questo è brutto per chi fa radio come me da tanti anni. E quello che è stato detto nei miei confronti continuerò sempre a ribadirlo, io ce l'ho ancora qua in bocca, ancora non mi è sceso e non ritengo di chiarire con nessuno perché non me ne frega assolutamente niente. Ritengo solo dire, e quello dico e chiudo, che mi è piaciuto tanto, tanto e tantissimo per essere proprio alla grande il fatto che sia stato accusato che io ho messo la portante in quei momenti in cui si stava iniziando appunto a cercare di mandare avanti la frequenza. Ho accettato, sono stato al mio posto, non ho detto niente a nessuno, però ribadisco che mi è piaciuto tantissimo sentirlo dire, soprattutto da una persona che ammiro tantissimo e stimo tantissimo ancora oggi. Comunque, pazienza, è andata così e non ci sono problemi, questo è il mondo della radio. radio, questa è radio, e questo è quello che può succedere in radio, come dice Mattia. Va bene, chiudiamo qua il discorso, non ci sono problemi. Questa antenna domani mattina vediamo se io sto già preparando gli attrezzi del mestiere, io ho delle pinzette fatte apposta proprio per i cavettini fini così, cerchiamo di tirare il più possibile e di far sì che almeno la punta del saldatore entri e riusciamo a fare qualcosa, perché diversamente ci sarà da sprecare altri quattrini per ordinare un piantone, purtroppo è così. Comunque in ogni caso, Claudio, prova a chiedere cosa costa quel piantone, se così, se costa, se non costa eccessivamente, sappiamo già in partenza come muoversi dopo, perdona. Sì, ma io un attimo ho detto subito il motto, io ho provato anche poco fa a chiamare questo amico, ma non mi risponde, c'è il telefono spento, non raggiungibile, perché prima inizialmente questi telefoni c'erano spento, oppure è raggiungibile, adesso invece ti dice che è raggiungibile, magari è spento, oppure non si comprende di nulla, anche lì hanno fatto delle porcherie, e hanno fatto di tutta l'erba un fascio, vabbè. Ok, comunque va bene così, poi domani mattina vediamo un po' cosa fare, vabbè. Io un tentativo lo farei, io non mi arrendo molto facilmente, Gianni lo sa, io un tentativo lo farei. Se questo tentativo va a buca, che vediamo, chiederò aiuto anche di Antonio, vediamo poi cosa fare prima di ordinare il pezzo, vediamo di fare dei tentativi ben accurati, altrimenti pazienza. Purtroppo è andata così e ciccia. Questo è voi. Lo sbaglio è stato fatto al momento in cui lì si è notato il problema, era subito da bloccare tutto e adesso già tu immagini che l'antenna è tutta piazzata, vulcanizzata, tutta piena di vasellina, praticamente battuta per far entrare il motto, ma certo gli ha menato di col piantone, bel casino. Però una volta che abbiamo il piantone nuovo, se non ci riusciamo dobbiamo romperlo per togliere l'elemento, ma altrimenti come ti vai a quello là, la battuta addirittura per farlo entrare già. C'è la bocca incastrata. E così mi ha detto Roberto. Sì, già, Claudio, ma in ogni caso basta la garrafonata nel taglio dove c'è la fascetta da si chiude, non è quello che mi produce, eh? Ah, vabbè, tu già hai gli attrezzi al mestiere. Siamo alcuni musotti alla Brescia, avevo già riguardi. Ecco. Già lesce, se lo dobbiamo togliere a largo con un coso, con un cartavito largo, come si chiama? Con una mazzola di gomma e un tacchetto di legno, già ne ho trovato che qui. Ciao, quello è il tuo lavoro. Noi adesso domani cerchiamo di far di tutto perché questo filo venga messo al suo posto. Dobbiamo cercare di far di tutto. In estremis, insomma, faremo qualche altra cosa, o lo stacchiamo e facciamo un forellino, poi lo siliconiamo, capito? Qualcosa facciamo. Qualcosa devo fare per forza, Roberto, perché buttare via 40 anni è un peccato. Io stavo pensando, se c'era Antonio, volevo chiedere conferma se si può fare, ma non credo che le crei problemi. Praticamente dove il cervello entra nell'accordo, in quel raccordo, quel raccordino, l'aggancio della spirale, praticamente svitare l'aggancio della spirale, cercare di tirar fuori il filo, allungarlo e poi ripassarlo dentro col fil di ferro fino a quando esce fuori da quel foro, in modo che sia leggermente più lungo. Bisogna vederlo sul posto, è inutile parlare adesso, se non si vede non si può fare. Vabbè, io l'idea ce l'ho già, adesso vediamo se è fattibile e riusciamo a recuperarlo, altrimenti vabbè, il discorso è quello, vabbè. Domani mattina mi avvicino, lo vediamo assieme e ce lo facciamo direttamente. Come ci hai messo tu, Mario? E va vabbè, sono quello un attimino di cose, se no vedere qualche cliente, perché molte volte quando sei sul più bello del lavoro ti chiamano, dice, oh, senti tu che ti vuole visto e prendere una macchina in consegna, eccetera, eccetera. Diciamo, il martedì va a calare appena appena, perché tutto il lavoro lo prende lunedì, ma diciamo, la vediamo di liberarsi appena appena. Qua se riusciamo a così, a crearci un attimino di cose, io credo che una mezz'oretta riusciamo a fare tutto, capito? Comunque domani mattina già mi avvicino io, vediamo un po' le tredici, cerco Antonio, vediamo un po' che cosa, quale dritto ci va lui, che è più esperto in queste cose, tecnicamente è più preparato sicuramente di noi, vediamo un po' cosa ci dice Antonio, perché se lui l'ha già fatto dobbiamo farlo, se è fattibile dobbiamo farlo, se non è fattibile il moto si tira fuori e si ordina nuovo, ma se è fattibile dobbiamo farlo per forza. Avanti Marco. Tutto qui. tappa tappa. Io sono preoccupato adesso se metto con l'antenna Claudio mi faccio la parassa. Ehi, io Roberto, lo dico con tutta la sincerità, non ti sento perché non sentivo a Antonello, non sento neanche a te, ma con quell'antenna a me mi senti ancora di più, mi senti ancora di più, perché è un'antenna 5 ottavi, quindi aumenta la ricezione, aumentano anche gli splatter, ma non c'è problema, noi parliamo sempre qua assieme, quindi può capitare una volta al mese che magari mi sposto da un'altra parte, ma è difficile che facciamo insomma spostamenti, capito? È difficile. Stavo guardando ACP che ha detto deficiente, è sempre fermo lì a quell'offerta col microfono, Robert, sempre fermo lì, guarda, perché non lo rilancia nessuno, capito? Non rilancia nessuno. Io ho provato a fare 2 o 3 offerte e lui subito parte, capito? Ma l'ha detto che è interessante quel microfono, ma bisogna vedere che cosa ha messo lui, che cosa ha messo di prezzo lui. Ho dato un limite, Claudio, per la prova, quanto 10 euro si può parlare col microfono, ti lo serve. Ah, quel microfono sarà il plus, ci sono, contare le spese, ci sono 10 euro di spese di spedizione, in posto accelere 3, sai che le metti 20 euro, 25 euro, più 10 sono 35 euro, è fatto sempre un affare, capito? È un microfono molto, molto selettivo, molto bello, funziona molto bene tra l'altro questa retta. Però sto temendo che a questo pronto mi vada. Sì, Claudio, sono su, l'ho visto, sono un'auto ancora migliore. Vabbè, lo su è un signor microfono, ma questa retta ha una capsula ceramica, ma molto selettiva. Secondo la modulazione che hai con Saletta, per esempio, se non mi sei già io Saletta, che non ce l'ho, guarda, tiro fuori questa modulazione, una modulazione molto molto professionale, mentre lo Shure è il microfono da baracchini, la solita, solito MB+4, MB+5, MB+3, insomma, quella modulazione così, con la tonalità medio-bassa, ma la Saletta ti dà questa modulazione bella, bella forte, con la tonalità proprio da microfono professionale, capito? E con l'apparecchio accanto che c'è tu, i microfoni come sono quelli per dire gli AES Unicom, cosa c'è che di quelli accanto? Beh, gli AES che uso io in banda amatoriale, diciamo tutti i microfoni NC60, MD1B8, MD1C8, quindi microfoni AES, microfoni Kenwood, c'è la Donis che è un signor microfono, sempre professionale per HF, ho l'MC85 che è un microfono super professionale, ma sto parlando di microfoni da 200 euro in su, non è che sono microfoni da 50 euro. Sto parlando proprio di microfoni da tavolo, e Palmari qual è il migliore di ciò che fai? Io non so manco che cosa sia il microfono Palmari. Io il microfono Palmari per fare attività HF non ne uso perché sono una rottura di scatole, però i microfoni della radio, io Icom, Iaesu, Kenwood, e quindi uso i microfoni suoi originali, non è che puoi mettere altri tipi di microfoni. Comunque la radio a questo te la vendono senza microfono come norma, così è? No, tutte le radio vanno vendute con microfono, per esempio il microfono del GS2000, io ho lo stesso microfono per esempio del 440, del 940, capito? Sono tutti uguali i microfoni, sono l'MC43 praticamente, che sono microfoni da palmo dinamici che vanno molto bene. Sì, con le persone ti vanno quelli Palmari comunque le HF, non torneranno mai a tavolo. No, sempre Palmari, beh certo. Tappa, tappa. Ma già. Ma sono i fermini, mi pare che vi saluto là e non lo ascolto. Sono tutti quelli che quelli sono là. Perché già, insomma? Mi stavo abbacchiando, mi sto proprio. ero sdraiato lì nel divano con la pancia e ho detto ma richiamo Roberto così esco perché sono rimasto per la sera a casa facendo, cercando di fare insomma il minimo indispensabile per non farmi male sta schiena. Mi ho passato un cavetto sotto, infatti stasera mi fanno male la schiena, forse va nulla, però dovevo farlo perché altrimenti era un casino. Va bene già, come voi, noi siamo qua, se ti svegli, sono le 10, ancora presto, ancora un po', mezz'oretta, un'oretta, facciamo ancora un po' di chiacchiere, di movimento. Va Mario. KK. Tanto se dormi troppo presto poi ci svegli troppo presto perché l'abitudine è quella di dormire a quelle ore e niente, invece così per compagnia a noi e poi intanto anche noi fra poco andiamo a nanna perché purtroppo domani batte la sveglia tranne che qualcuno che infili e se la ride alla faccia nostra la matta Marietta, la matta. Se tu anziché svegliarti alle 6 come ci svegliamo noi per prepararci per andare al lavoro, tu ti svegli alle 8, 8 e mezzo, non c'è problema, non ti sgrida nessuno. Già, questa settimana mi mario poi anch'io, io mi alzo prima di voi. Io alle 5 e mezza sono già in piedi, eppure quando me devo trattenere, fino alle 11, 11 e mezza, mi faccio due chiacchiere due volentieri. Io tutte le mattine alle 5 e mezza, mi alzo, mi preparo, poi alle 6 e un quarto, 6 e 20 esco, vado a prendere il collega. Il primo bar che troviamo aperto ci prendiamo il caffè e poi ci va in viaggio, KK, perché alle 7 e un quarto, anche alle 7 e 10 io devo essere già sul posto di combattimento, prendere tutte le relazioni, tutte gli ordini di servizio che ci sono da fare durante la mattinata e iniziare a distribuire perché alle 7 e mezza arrivano i pirati e si inizia il giro di lavoro e quindi tutte le mattine il mio tram tram è quello. Arrivare soprattutto prima degli altri perché ci arriva dopo rimangono fermi anche loro, quindi io devo arrivare prima, organizzarmi tutto quello che c'è da fare, poi quando arrivano sapere già che dobbiamo fare quello. Purtroppo tutti i giorni così, e anche adesso sono vicino perché sono a Barbiera, prima era Nulvi, quindi d'inverno, e devo fare saccaggia, perché da Osilo una volta si può passare, due volte no, perché c'è neve, perché c'è ghiaccio, quindi purtroppo è così, quando era a Cagliari in Montenegro, uscivo alle 4 del mattino, perciò Mario, via ieri. Mi ha fatto tanti sacrifici e sto continuando a farli per andare avanti, perché lavoro è quello. E purtroppo non è che puoi dire non ci vado. Anzi, sono uno dei pochi che quando chiedo mi danno subito senza dire manco bara, che io praticamente con il mio responsabile c'è un rapporto molto legato perché praticamente collaboriamo, ci sentiamo ogni quarto d'ora e ha visto che ero un po' in condizioni brutte e infatti mi ha detto che se non ce la fai metti malattia, chiamiamo un sostituto e cerchiamo di andare avanti, ma invece io lì ho detto no, mia malattia non me metto perché non è il caso, cerco di tirare fino a quando ce la faccio, poi se non ce la faccio ho ancora qualche giorno di ferie, mi metto in ferie e vedo un po' di riposarmi diversamente, così abbiamo fatto, giusto perché c'è un rapporto di amicizia, di serietà, e io sono entrato nel 1991 qua, praticamente da Cagliari, poi pian piano mi hanno avvicinato. Io sono stato assunto a Cagliari, punto concorso a Cagliari, e ti dico che dal 91 ad oggi Mario mi sono assentato forse due volte con questa, perché non a mettere a casa è come mettermi in galera. Sei come tutti noi, Nicola. Io adesso ho dato una battutina così, giusto per per sostenere a Gianni, per questo, boh, non è che lo so purtroppo che il lavoro, bisogna andare dove è il lavoro a casa non ci viene a bussare la porta, e bisogna che ci attrezziamo e che affrontiamo la situazione, perché è così, se no, no è un guaio. Facciamo riprendere a Claudio, no? A Roberto, cioè. Avanti Roberto. Vabbè, io sono ancora peggio di Claudio come situazione, perché sono artigiano e devi mettere la musica, di lì, se non lavori non fai nulla, cioè se ti assenti non fai niente, meno male siamo in due, io mio fratello e questo mio padre, se no erano guai. Capa, ma sono le migliori situazioni quelle lì, perché tu sei artigiano e sai che se non te ne zappi nessuno te ne dà. Oggi ti assenti tu e ti copri il tuo fratello, domani se senza tuo fratello sei tu che devi coprire a lui, domani ancora si può sentire tuo padre e siete voi due che coprite vostro padre, così è una cosa buona quella lì, perché capito, non c'hai nessuno che cerca di fotterti, non c'è nessuno che ti mette il bastone tra le ruote, perché a livello familiare e così via. Giustamente hai una necessità tua e gli altri capiscono che vengono incontro. Però come tutte le cose non deve essere una cosa continua, perché sennò anche se sono parenti dicono ma questo qui cosa sta giocando a fare il furbo, perché è la stessa cosa, non è che cambia molto, solamente che a ambito familiare uno è più comprensibile e va bene così. KK, riprende Claudio. Cosa c'è? Ne prendo io, sono 96 anni, se vuoi riprendere siamo qua dietro, non c'è problema. Va bene, quello che ho visto stamattina, che mi ha detto che eri dentro l'ufficio, tuo fratello Roberto. Quello più basso di me sta dicendo? Sì, mi immagino lui, c'erano due ragazzi, però quelli sono giovani, due apprendisti, ma sono giovani. Se avevo detto mio fratello, non credo che abbia visto mio padre, perché mio padre è più anziano. No, c'era anche il tuo padre, quando ti ho dato il numero di telefono, c'era tuo fratello e tuo padre in ufficio. Sì, papà, no, mi stavo confondendo, allora, sì, è vero, c'erano tutti e due. Ma tuo padre sta lavorando o è in pensione, state mandando avanti voi? Allora, ufficialmente lui è in pensione da 92, se ne presenta, però travagliato di prima. Vabbè, lui è lì e ci vuole sempre una persona con più esperienza, con più... comunque, per lui va bene che ci sia sempre la mente lì. Grande capo ci deve essere sempre. È giusto così, va bene, cosa fai? Lo butti fuori, anzi, è già troppo che avete un'attività vostra con l'aiuto di vostro padre, Ciccia, tu immaginati, mio padre nel 1960 aveva due negozi e due officine di autoricambi, di cui un collaboratore di mio padre era Busia, Salvatore Busia, oggi è un miliardario. Purtroppo è mancato che noi eravamo tutti piccoli per una troncata, un'operazione alla City Feller e ci è rimasto allora nel 1960. Quindi immaginati tutte le attività, noi eravamo tutti piccoli, mio padre ha cercato di portare avanti tutto, poi alla fine chiaramente noi eravamo troppo piccoli, quindi non ce l'ha fatta, l'ha iniziato a dare un pezzo qui, un pezzo là, un pezzo lì e alla fine insomma no, non è rimasto più niente per noi che allora la mentalità magari era diversa, ma trovandomi grande oggi non sarei stato alle dipendenze di nessuno, sarei stato alle dipendenze di mio padre, con quello che ha creato mio padre, con quello che lasciava a noi insomma, e invece purtroppo è andata male, tutti i fratelli di mio padre hanno la sua attività, di cui una iniziata proprio a mio padre, l'attività delle bombole praticamente, dove ad Alghero i fratelli hanno delle grosse attività, molto quella che ti ho detto, molto molto avviate, però insomma sono rimaste delle case a Porto Nove, se qualcuno ad Alghero, quindi niente, la famiglia è andata avanti e non è mancato niente a nessuno, ecco. Però se ci fosse stato lui oggi, per l'età che ho, ti posso dire che a volte, pensandoci bene, il punto di riferimento manca, anche se ho 46 anni, però sai, manca sempre quel perno che è molto importante, soprattutto per un uomo, avere un riferimento così anche morale, cambiare due chiacchiere, due opinioni, due cose, invece purtroppo non c'è, e quindi pazienza. Papa, purtroppo il destino non si comanda, dai. Facciamo, cambiamo argomento, dai, no, vuoi. Lo so, vabbè. Anch'io a volte rimango così, però non ti nascondo che ci penso sempre, pazienza, è andata in uscita, devo dire. Non c'è niente da fare, hai tutta ragione, il destino si comanda. Avanti, Marini. Non sappiamo mai cosa ci predilige la vita, è quella, è la realtà, davvero, ma comunque se ti lavanti e non si finisce mai di combattere, sempre per portare bene la famiglia e per andare avanti nelle migliori condizioni possibili per tutti, è così. Così sì, ma purtroppo, come dice Roberto, non si comanda niente, quando lui dice io devi pure fatto e andare, se no via, ti canta il cucco. Allora Claudio, ehi. Sono fatalista, io vivo la giornata, non so insomma al futuro, quando mi dicono tutti ma l'anno prossimo facciamo quello, che non ho visto nulla, niente, per me non ho visto nulla, non si va a rinnovare, tutto uno c'ha la razzia, lo fa brutto, tutti lo fanno programma a lungo termine, io sono di quelli di carattere, non posso mai, lo so come dire che insomma adesso, all'anno prossimo mi faccio i soldi, mi faccio il cuore, non c'è niente, io non ci posso mai, a conti a lungo termine. Ma per bene, Roberto, per bene, perché... quando ho fatto i progetti, era mia, da voi, nei progetti non ne rimane mai nulla, guarda, sinceramente parlando. Qualcuno dice che sono troppo pessimista nella vita, però anzi io sono molto ottimista, non sono pieno di vita, non posso vivere la vita, però non farò programmi a lungo termine, se io devo fare qualcosa la faccio oggi, non domani, non posso la domani, naturalmente sto troppo con il suo passo, con il suo lavorare. Bello, se non fai, se non si fa il giusto passo, le cose non vanno bene, perché i passi più lunghi della gamba non si possono fare. Non si possono fare. Io ho sempre cercato, noi tutti, perché noi eravamo in cinque, il più piccolo ero io, aveva 3 mesi, quindi tu immaginati, io non ho neanche conosciuto mio padre, perciò. E mia madre, ti posso dire che ci ha messo i pantaloni, ci ha fatto grandi, non ci è mai mancato niente, tutte persone serie, siamo tutti sposati, mai abbiamo avuto giramenti di gabbo, come si dice, abbiamo sempre vissuto la nostra vita tranquilli e sereni, con molta dignità, con molta stabilità soprattutto e con molta educazione. Però, cioè, sacrifici ne sono stati fatti tanti. E poi, oggi che siamo tutti grandi, insomma, cerchiamo di fare gli stessi sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, dico in generale, perché tu hai 2 figli, quindi chiaramente hai la tua attività, il tuo lavoro, cerchi di combattere anche tu la giornata per far sì che a casa non manchi niente, che tutto funzioni bene, che tutto sia in regola, e così fanno tutti, Roberto. Ma non so se te lo fanno questo discorso, lo sto facendo tu, lo faccio io a me. Conforme l'aula. Kappa, purtroppo ci sono gli altri e bassi e non tutti ragionano allo stesso modo. C'è quello che dalla famiglia se ne frega, c'è quello che ci tiene, anche se per assieme terra dice no, è così e non cos'ha. Anche perché quello che ci tiene è porta avanti il discorso nella sua famiglia, capito? poi c'è quello che se ne frega, il discorso non è posta, da anche un cattivo esempio ai figli, infatti tutti quanti quelli che vede un pochettino così sono perché, secondo me, hanno avuto poco affetto dai genitori, e poca comprensione, e poco spazio, purtroppo è così. Papa, confermo, no? Io cerco di dargli quello che mi posso trovare senza regolare e se possibile farmi fare cose che io non ho avuto l'opportunità di fare, diciamo cose che a me non mi hanno dato. Ma... quello non lo sbaglio. Ecco, senza regolare naturalmente, purtroppo i tempi sono cambiati, io prima mi accontentavo di una fettina da piccolino, adesso è tutto diverso, da vari mesi sono totalmente diversi, sono più esigenti, eccetera, eccetera. Ma non vuole che capitasse anche ad altri, a quello che costa 1.000 francesi. batterie. Basta risaldarmi il filo e si risolve il problema. Ah no, la base funzionava, tutto a posto, era fatico, l'ho trovata, non una molto sulla, molto migliore di quella consola. Un po' la mia, quella la guardia, era un castro, non era neanche un punto fusione. Ah, ecco. Perché io ripeto, io ce l'ho la mia, la faccio qualche che ho preso, però non ho malato problemi, l'ho piazzata tranquillamente. Anche io tutto posto, tutto tranquillo, ho fatto qua, l'unico problema è stato un po' duro ancora la base in retina, dentro il tubo. L'abbiamo messo con gasolina, abbiamo entrata, diciamo un po' duro, ma con il resto tornava tutto per conto, grazie. No, quando è così, Robè, vaselina non se ne usa in quelle cose lì, capito? Bastava prendere una lima, praticamente limarlo un po' la cosa della regina, lì entrava tranquillamente, come abbiamo fatto su quella di Lucca. Adesso non sono detto questo, che me l'hanno provato voi, ma è anche Claudio, soprattutto ieri, non lo fare più questo errore, perché il discorso non sono detto che va quando guardo soltanto. No, ce l'aspetto, ragazzi. Vabbè, provate a vedere se riuscite a rimediarlo quel discorso lì, poi io chiedo per il piantone, se si trova il piantone completo, glielo dico e vediamo un po' cosa si può fare, dai. Fatemi sapere però, Ma tanto Claudio ce l'ha il tuo numero, mi sa, no? Tu di cosa costa pure, i posti come sono lunghi, quanto si impiega arrivare eventualmente? Arrivare ci metterà adesso 12-13 giorni, Come vai? Perché tra tutta la volta se non c'è ordine, un altro ordine espresso, non è che si può ordinare solamente quello, capito? Sì, ma l'unico che si fa forzazione, fa forzazione, sono 3 giorni, sono un altro numero, te lo vanno, tanto in un pacco portale si fa quello. Ecco, io provo a chiedere, domani al limite io mi fa una bassa a Claudio, gli faccio una bassa io a Claudio e vediamo un po' cosa si può fare. Però voglio sapere se avete risolto o meno, capito? Sì, domani vediamo un pochettino. Secondo me sicuramente bisogna attuberlo con la spirale, con l'avvolgimento in filo nero, bisogna attuberlo, non darlo a rinfilarlo dentro. Perché io guardando così a occhio, l'altro l'ho buttato giù, non si vede il filotto. Sembrava che ci fosse, però era solo il cappuccetto della guaglia, però il filo non ce l'era dentro. Prova a vedere se riuscite a farlo, se no mi fai sapere e vediamo un po'. Se no ci prende lo stesso filo, ci misura la carica che c'è e si rifà, non è che sia quello il problema, no? Infatti come vuole fare Claudio, sono 10 filo, si guarda lo stesso dove il filo, mi sembra anche il croce da un millimetro e mezzo, e si rifà direttamente, non penso che sia una cosa così complicata. Poi, io ci voglio fare. Basta fargli la carica uguale a quella che c'è sotto, si risolve il PL, l'antenna torna come prima. Allora, io ti posso dire una cosa, con la schiva sono una attaccata all'altra, secondo me è una bozzeria. Io facevo le bobine per i filtri per l'alta frequenza, per le FM. E quindi non guardavo la distanza delle file, il diametro delle file, il numero delle file, e usavano delle accoglienti allucinanti. Io non c'ho problema perché già sono tutto già pronto, i fili sono una attaccata all'altra, ma la chiamata si va sempre la vita. Sì, conti la spirale, non la togli tutta con la carica che c'ha, la misuri quanto è, mezzo metro, 50 centimetri, 80 centimetri la rifletto, 80 centimetri gliela risolvi com'era, basta. Il problema sarà soltanto cercare di entrarla, secondo me se non si recava più bisogna entrarla dalla parte del buco dove c'è il PL, non come lo stanno facendo noi, il lavoro al contrario. No, bisogna entrarla dove è entrata prima, se l'hanno entrata loro si rientra attorno da lì, tutto lì il problema, si toglie il filo e si rinfila da dove è stato tolto. Però non vorrei che bisogna attendere i risvolti che tengono alla regina, perché se va a fare con la volume è un po' più problematico. Perché gli arrivetti non ci vuole niente, si trappano i rivetti, si toglie la carica e si rinfila il rivetto. Sì, no, vabbè, vai, sto pensando domani devi fare molto attento perché se fai come costume di rivetto la regina è morbida, fai danno, bisogna stare molto molto attenti. È una regina abbastanza dura, scusate un attimo. Se si può fare come sto dicendo io non è difficile, senza togliere la carica, ho detto, senza togliere la carica, perché quel da lì non si può mollare dove praticamente inizia la carica, no? Se io riesco a stilare il filo da lì, io il filo le posso fare anche un altro buco, piccolino, proprio dello stesso coso. E lo faccio entrare, di traverso lo faccio ti viene male. Entrare in tavolo tutto per intero, da dove, dal foro del piantone della resina, farlo entrare fino a giù e poi praticamente entrare nel foro dove c'è l'attacco della spirale e fare nuovamente l'avvolgimento. Ma non ci avevo pensato che si poteva fare un foro, però non era venuto proprio a me. Non ho pensato al caso, la cosa è già intorno, si lavora per questa volta perché il bordo del coso, del paraporto, ci ha tagliato una parte del palo. E dall'altra parte ho messo dei cavalletti, come vediamo tutti, si lavora per questa volta al senso ideale. Perfetto, domani mattina lo operiamo. Sì, perché non si può fare, non fa niente, una volta che poi abbiamo entrato il filo, e facciamo un forellino col trapanino anche a batteria con la punta fine e fine, e facciamo un forellino e facciamo uscire un altro pezzo di filo, capito? Poi una volta che è tutto salvato, il foro glielo praticamente, o glielo resiniamo nuovamente, o ci mette un pochino di colla a caldo, non è un problema quello, l'importante è far uscire il filo. Appassata, solo quel buco forse non è venuto in mente, è una buona idea. E riusciamo a fare il forellino a fianco, gliel'abbiamo messa, perché allora io mi tiro il filo, me lo faccio ripassare nel foro nuovo, lo saldo e poi glielo rimetto nel foro dove c'è l'attacco al piede, e il forellino glielo chiudo, e quindi è come che non sia successo niente, proprio fatto tu la resina ce l'hai in officina, quindi basta una punticina di cacciavite giusto per tappare il forellino, e se non si mette per la colla a caldo non succede niente, assolutamente. Avanti Natali, che dici, questa esperienza di Roberto ci sta costando? Io non dico se non vedo. E tu gliene hai fatto di modifiche in antenne, e praticamente ci è attaccato il connettore dove attacca il PL Natali, e girando si è disoldato il filo dell'avvolgimento della bobina, e siccome è talmente corto, adesso andare a prenderlo è un casino. Bisognerebbe agganciarlo con qualche tintetta, qualche cosa, che glielo fuori. Infatti io faccio così, se riesco a tirarlo fuori, anche facendo un altro forellino, lui è fottuto, perché allora io lo allungo anche molto, lo faccio uscire nuovamente dal foro, e poi le faccio la misura che dico io, persino a tutti. Se la spirale, anziché fare a 7 cm, deve andare a 8 cm, perché salviamo la curvatura, lo esamina a tutti. Claudio, dimmi. Ma non accendo così, Cos'è, Natalia? Come regola, come teoria, sono radiale senza il radiale, senza i 5 radiali, sono radiale. Ma per radiale sono la massa dell'antenna, vabbè, non pensare che sia una verticale, il radiale verticalmente, il radiale servono a piano di massa. Quindi ci vuole una qualcosa, pensavo un'ipotesi assurda, dico, se secondo te lo troncano il radiale, l'antenna continuerebbe a funzionare, si fa con la rotazionaria, buono, cosa succede? Ma infatti ne vuoi di quel radiale, vabbè, non preoccupatevi, a parte il fatto che non si rompa il radiale, ma di quel radiale io ne ho altre 4, ne pago altre 3, quindi non ci sono problemi. Tu non ti preoccupare, noi pensiamo adesso all'antenna e radiale non ci pensiamo. Ma che la devi un buon giro, tutto con le radiali troncate, dico, ma possibile, l'altro da un tempo si troncano di questi radiali. I corri sono gli uccelli che li troncano, capito? Io figurati, nella mia ne ho cambiato 8 di radiali, 8, io ho la mantova turbo, quest'estate praticamente mi sono comprato l'alluminio nuovo, mi ho fatto tutte le misure per non cambiare l'antenna, perché l'antenna è buona, è ottima, per non cambiare l'antenna, e mi sono comprato l'alluminio nuovo e gli ho fatto tutti gli innesti nuovi, capito? Con il forettino passante, la vita autofilattante, tutte nuove, e gli ho messo i radiali nuovi, gliel'ho rifatti io i radiali nuovi, con lo stesso diametro che c'era prima. Ho comprato i cappuccetti per l'acqua, ho comprato tutto, con 15 euro ho rifatto l'antenna nuovo contro i 130 euro che costa la mantova turbo, capito? Tutto lì. Non ho capito Natali cosa mi hai detto, poi facciamo girare per Mario, cosa stavi dicendo Natali? È che siamo una vedova, la situazione non posso dire, bisogna andare a chiedere la cosa, basta bene. Si può ci vedete come la tua, però, e non è come la mia, no? Quella piccola via fa. Parabole diverse, capito? Non sono come quelle protezione, tu già lo sai, tu no. No. Altre antenne abbiamo fatto. No, abbiamo fatto, l'ho sentito anche un altro amico, che non so se ha fatto lo stesso discorso che hai fatto tu, che hanno comunicato con la Mir, dice, con il satellite, con lo russo. No, noi con la ISS. Poi anche tramite computer si direttava, questo amico a perseguitare i satelliti e li collegava, non c'era nulla a fare. Quello sì che è un mostro. Ma poi stavo anche da qualche parte, addirittura si usano la Luna come riflettore, è vero questo fatto? Certo che è vero. Solo che sono pochissime al mondo che lo fanno quel discorso. Uno di quelli è quello lì, quella persona che sto dicendo io. E l'ha fatto anche il mio primo maestro, quello. Vabbè, là, maestro, diciamo così, chi di noi stavamo a fare queste cose? Capito? Vabbè, il maestro poi può essere superato dall'allievo, non era così il Cimabue, non era il maestro del Giotto, il Giotto è diventato meglio del Cimabue. E vabbè, ma quando superare quelli ce ne vuole. Piano piano, ragazzi, non è che deve imparare tutto in una riga. La riga, io lo conosco. Non lo so. Vabbè, là. Allora, cioè, io so che per molte cose chiedevi consigli a quello là, ti faceva programmi, ti faceva tante cose, pensavo che era lui, e invece niente, là. Vabbè. Ce ne sono anche altri comunque bravi, ma anche quello lì già ne sapeva due frecce. Adesso non so se stiamo parlando della stessa persona oppure no. Vabbè, quando ci troviamo ce lo racconteremo. Allora vado a il microfono, becco. Bianco, avanti ti vede per potenza di darsi panchino da guabalare al clare, ti piazzi. Sto scherzando, ripeto. Buonasera a tutti e ben sentiti, non so che ci sia un bipolo mi servirebbe, chi è che potrebbe farmi un bipolo per una frequenza di 47.757 MHz? Facciala bravo lì, abbassi un po' la radio, è troppo forte. La radio è questa, signor Claudio, non posso fare nulla, non posso né alzare né abbassare. A parte il fatto che io non sono Claudio, li ascolti bene, se non vengo lì e li taglio e batti a lei. Ah, scusi, sono natalista, ho cambiato apparato e con questo nuovo non riesco ancora a distinguere le voci. No, Giova. Ho qui c'è la linea muore, tu? È sicuro? Ciao, Vincenzo. Ma con la stessa, Gedi? Mi avevi fatto tua sorella? Sì. Amico, che ci è arrivato a comprare a un paro della segnale radice, quindi ha sfruttato due radici, io tradizionale, ho qui distrutto un palo di una verticale e l'altro palo lo metto dall'altra parte, la faccio così, uguale a lui. È una, adesso che è una trompata a palla, comunque, adesso che la mi sento bene, ho già comprato il materiale, cavolo a 6 mm, tu immaginati, cavolo a 6 mm, con i tubicini tipo quelli che hai usato per la G5RV, uguale a quelli, capito? Tutti messi così, ce l'hai vista, senza malo, ma senza niente, diretta, diretta, dice che è una favola. Adesso, adesso la mettiamo in cantiere, ho già tutto pronto, ma purtroppo non posso farci niente perché non sto bene con la schiena, quindi no, no, non posso fare niente, appena mi rimetto un po', la facciamo e poi ti do le misure, Natalia. Ehi, ma bisogna fare un sistema di carrucche per tirare laggiù, come ha fatto lui, se no, capito, viene difficile a metterla, capito cosa ti voglio dire io, bisogna fare il tenditore prima, la caccia lì e c'è di stare, tipo la tapparella, bisogna farlo. Si farà anche quello, l'importante è iniziare la costruzione e poi per il montaggio quello si farà dopo. Avanti Mario, per i saluti a Giovanni e compagni e poi andrai per Roberto. Sì, io Giovanni l'ho già salutato poco fa da quando è entrato. Prima gli ho detto che lo faceva aspettare, poi gli ho detto di entrare e lui lo riconosce subito a questo messero, che poi non è per niente un messero. Vero Giovanni? Alleluia, va bene. Riprendi tanto Giovanni e poi passi a Roberto. Così. Mi sto accedendo, ma non sto accedendo perché sto parlando con Franco. Riprendi Roberto. Era venuto a contatto con un secondino, è entrato Giovanni, così era entrato, ben sentito. Ciao Roberto. Ciao Claudia. Gappa, gappa. E quindi è così. Va bene, va bene. E tu Giovanni, e Luca è passato stasera a te. Non fa conosci la pista, ascolta, con l'apparecchio che c'hai lì sopra, quando me lo dai. E sopra ce ne ho tanti apparecchi io. Devi scegliere il piano, piano terra, primo piano, secondo piano. Quello che c'è il piano terra, uno sopra l'altro, va. Ah, quello di sopra, perché ce n'è uno sopra l'altro, quello di sotto. Ma siamo nel 2006, quello è già passato. Ehi, ma chi sono? Quello è il 2000, siamo al 2006, dove? Se ti stai arrivando al 10-2000 è già passato, siamo al 2006. No, quello c'è a fianco al 10-2000, quello di sopra. Ah, ho capito. No, si è attaccato proprio che gli c'è radio, Lasciamelo mandare al 160, Giovanni, perché ha un problema sullo stadio finale. Non sono i finali, c'è qualche problema, non so cosa sia, ho mandato alla Kingwood, praticamente sicuramente c'è qualcosa sullo stadio finale, perché non dà potenza, praticamente va in protezione, come se lì dà potenza va in protezione e se ne ritorna 5 watt. L'unico problema che ha, per il resto ha un ricevitore che è la fine del mondo, e poi è nuovo, già l'ho visto Franco. Se lo metto a posto ne parliamo, Giovanni, non ti preoccupare. Ehi, già l'ho visto Franco, lo visto anch'io, se so dove nel punto esatto l'ho visto anch'io. Vabbè, stai vicino, aggiustalo quello, dai, non, già non ho fretta. Allora Giovanni, fatti la fotografia a 2000 che è più bello. No, non vado io alle cose grosse, non cerchiamo di non essere troppo esigenti. È piccolino, ci accontentiamo anche del piccolino. Hai capito, vabbè, come tratta? Vado da un po' qua, vado qualcuno là, se vuoi. Non c'è da punto lucino, non c'è da punto lucino. Ma lo Abbiamo la famiglia completa. Ma in cuneo? Ah, in cuneo, cioè, ma così è. Sai che è un po' la banda intera, hai capito? KK, oh, meglio così, non è che sono dispiaciuto, no, anzi sono contento perché magari un domani potrei averne bisogno io di uno di quelli lì, in modo che quando metto in moto la situazione ascolto sia da una parte che dall'altra e non ho bisogno di riempire il tetto di chissà che cosa. Ah, io non perdo di filo, ho fatto il conte e ho fatto anche il diploma. Capo di positivo. Dimmi, non va, e se non si viene a va, ora lì, primo era arrivato. Ma infatti ho detto che insomma hai seguito PL, tu hai partecipato a un contest e praticamente hai avuto una gravatura anche molto molto alta. Solo che poi è successo il problema del padre, che ha avuto dei problemi, quindi si è dovuto staccare dalla radio e ha perso chiaramente alcuni punteggi, però per il punteggio che ha avuto sei stato grande, perché io ve lo dico perché non partecipo mai a queste cose, nonostante posso farlo, no? Sia in trasmissione che in ricezione. Non lo faccio perché è una grandissima lettura del ballo, devi stare lì tutto il giorno chiamando, ascoltando, facendo, scrivendo, molla, tira, tira, molla, invece a me non mi piace, compro, vendo, capito? No, non va bene, compro, vendo, vieni. E tieni presente che è più difficile spegnere doppia VL, perché invece di segnare una volta devono segnare due volte contemporaneamente, è proprio difficile, Adriano, ma intendi che siamo là da subito. Perché ci vuole una certa passione, ci vuole il tempo, e tu sai che Adriano non è sempre che c'è il tempo che vuole, perché quando deve andare anche lui va, non c'è problema, capito? È un po' come tutti, cioè molte cose sono adeguate al tempo disponibile che potrebbe avere una persona. Tu magari c'hai delle ore disponibili che io non ho, o che Claudio può averne di più, che però allo stesso tempo per ovvi motivi non può fare più di tanto, capito? Già lo so. Adesso devo farne un altro il contest col cattivo. Domenica. Oh, che cazzo mi ha detto? No. Ah, che bubacchi mi siete? Mi sono allontanato, mi hanno fatto la scatola del passato. Vabbè, là, come ti permetto? Ma c'è andato a mangiarti la doccia e a prendere il caffè. Ah, se veniamo che rompi l'anima a noi. No, la torta non l'ho mangiata perché la torta di mano non mi piace. Ho preso il caffè, non camminare, è tutto dolce. Invece l'amico tuo l'ha già pigliato, si è mangiato la doccia, si è pigliato il caffè, allora si beve la mano dell'erba, no? Oh, no, prima di pigliarsi il caffè la mano dell'erba, ci metto la caricata una pagnotta fatta dai panettini del tizio, ho già fatto due panini, si è pigliato il caffè, allora si beve la mano caffè. Perché quello è più bastardo di te, quello è un bastardo, entra e fuori. E poi domani la taglia, mi devo fare una vicinetta, visto? E ma ci metti via il buonoscio, adesso. Non entri, non parli adesso, bastardo, non parli. Bastardi, bastardo, sempre criticando, mi citate, maledetti. Inteso dai, dai, inteso dai. Che appunto è vero, mi sono fatto un abito di bici Armani, cazzo che portate in ristorante a te. Santa Maria della Notte, ragazzi. Uno struzzo, vabbè, uno struzzo. Allora, Franco. Allora, uno struzzo, ragazzi. Ci mangia anche i chiodi. Vabbè, mi sono fatto quattro chiodi, ci si fa sempre. Appetito? Appetito, se c'è chi l'ha inventato ci mangia anche a lui. Tanto là, guarda come fa stato bravo, non rimane la pochissima. Allora, io ormai lo conosco, 20 anni, e l'ho visto sempre con quel fisico. Quindi, per me non è un grande mangione. Secondo me mangia più Franco di lui. Sarà vero o male? Diciamo che come quantità può darsi che mangi più Franco, come quantità, ma anche io già mangio e mi tratto bene, capito? Non è che mi tratto male, davvero. Sì, così è la vita. Oh, io la bevo alla 80 centimetri, il giorno non me la mangio mai, il 2 la faccio mangiare. Sì, ma il 2, diciamo 1,5 va, perché mio figlio non c'ha già di meno, mio figlio c'ha 15 anni. La parete è poi quanto della parete? Sì, ma che cosa vuoi che sia? Tu adesso immaginati 80 centimetri di braccio, ma è una cosa che ne viene, non è grossa, no? Non è che ti stai facendo 10 kg di chissà che cosa, no? Se pesava molto quella tesa della panese, diciamo che pesava 600 grammi, no? Ma esagerando, eh. Non mi piace, troppo, no, niente da fare. le cose sono buone, quelle, specialmente quelle cose lì, quando sono sottili dal punto di giusto, se no non vanno bene. E si conferma. Ambardina Nera. Ma Claudio, non mi dice, Claudio, rispondi. Sono qua. Sembrava che ti sei dormito, non parlavi più. Sì, ma ti ho fumato quasi una media di 8 sigarette già. 8? Non vado bene, sì. Sapevo, non sono qua alla radio. Fumo a grande carriera. Che schifo, yeah. Ma... 3. Non me lo dico, no. Dice qualcosa che non va. Claudio, butta l'occhio con la pressione là, c'è sempre ferma. Sempre ferma. Ehi, KK, quando sta per scadere le fai un'offerta e vedi un poco, senza uscire fuori dal secchio, naturalmente. Guarda, un'offerta c'è per 50 euro, la rete che arriva. Ci sentiamo domani, Mario, buonanotte a tutti. KK, domani.